Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e di nuovo i temi di questa giornata economico-finanziaria. Un'altra buonissima giornata in borsa, più 3,15% Milano in questo momento, Parigi più 1,4%, più calma e moderato rialzo di Francoforte più 0,70% e ancora Londra più 0,90%. L'America guadagna l'1,40%, questo nonostante nuovi rischi o voci di rischi sulla tenuta del mercato immobiliare in Cina. Ieri l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale si era beccato anche il nostro gufo per avere espresso molto pessimismo senza chiarirlo sulla tenuta del mercato immobiliare in Cina. Oggi sono crollate comunque le vendite di appartamenti residenziali in Cina. Il tema è delicatissimo perché manca solo che scoppi una bolla immobiliare anche in Cina. E poi torniamo capo a 12, meno 50% nelle principali città cinesi le vendite di nuove case. E dicevo, nonostante questo l'euro si rafforza di nuovo a 1,26,30. Parleremo di cosa oggi? Oltre che di borsa, tra l'altro tra i titoli segnalo soprattutto oggi Intesa San Paolo più 7,1%, Popolare Milano più 6,5%, Unicredit più 6,3%, Banco Popolare più 5,80%, Mediobanca più 5,30%, Ubibanca più 5,30%, Monte dei Paschi più 5% e Prismian, primo dei bancari dei non bancari tra i titoli che stanno salendo, più 3,60%. Ancora bene Exor più 3,5%, Autogrill più 3,5%, Fiat più 2,6%. Dicevo, parleremo di borsa, ma anche partiremo con la lotta alla contraffazione. Oggi infatti si è tenuta la giornata nazionale in diverse città italiane della lotta alla contraffazione. Temi che già ieri abbiamo toccato per quello che riguarda il danno economico: 7 miliardi di euro, 130 mila posti di lavoro in meno, 5 miliardi che non entrano nelle casse dello Stato solo per quello che riguarda l'Italia, con un danno poi in quella che è più che la contraffazione, la falsificazione, ossia quello che si chiama in gergo Italian sounding, quello che sembra italiano ma italiano non è, che vale 32 miliardi solo nel settore agroalimentare. Ne parleremo con diversi ospiti. Poi la borsa, come ricordavo, i primi dati, le anticipazioni che saremo in grado di fornirvi sull'andamento del mercato pubblicitario domani, l'assemblea annuale dell'UPA, che è l'unione degli utenti pubblicitari, e poi nella seconda ora del programma il federalismo fiscale in tema di costi, cioè andiamo a vedere quanto le regioni siano virtuose o non virtuose, che differenze ci siano a parità, immaginiamo, anche se sappiamo che non è così, di servizi erogati, di quanto pesano le regioni sui singoli cittadini in base anche ai servizi che offrono. Ne sentiremo delle belle. Questo non per dire che non esiste il problema sollevato anche oggi dal presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, da Sergio Chiamparino in quanto presidente dei Comuni Italiani, che la finanziaria penalizzi molto le regioni, molto meno la spesa pubblica. Sappiamo che metà della finanziaria si scarica sui trasferimenti alle regioni, la polemica è anche molto politica, adesso vi racconteremo alcuni elementi emersi oggi, ma per dire che comunque che ci sia un utilizzo quantomeno disordinato delle risorse che le regioni hanno a disposizione, con diversità enormi a cui non corrispondono, ripeto, diversità di servizi offerti, anzi spesso le regioni che spendono di più e che quindi costano di più ai cittadini sono anche quelle che hanno i servizi meno efficienti, come avviene in economia. Però insomma, i due temi stanno assieme, altrimenti sembra che le regioni siano solo vittime e che siano tutte virtuose. Così non è. Va detto, lo dico a chi sta scrivendo, che invece il ragionamento che faceva anche ieri il ministro Sacconi sui danni fatti dal prendere come riferimento la spesa storica e non la spesa standard, quelli sono danni veri. Cioè fino adesso si è preso come riferimento quello che era la spesa degli anni precedenti, e quindi le regioni virtuose che spendevano meno paradossalmente sono state svantaggiate. Le regioni che sforavano i tetti, che avevano delle spese molto alte e spesso anche ingiustificate, ne sono risultate avvantaggiate. Con i costi standard, cioè si fissa un prezzo di un servizio che vale su base nazionale, con alcuni distinguo, ma vale su base nazionale, invece lì dovrebbero essere premiate proprio le regioni virtuose. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, siamo partiti dall'economia internazionale, diamo anche la variazione del prezzo del petrolio a $72.5 al barile. Da notare oggi quello che sta capitando con un indice che ogni tanto utilizziamo, mi riferisco al Baltic Dry Index, è, lo ripeto, l'indice che misura il costo per noleggiare un cargo, per trasportare merci che non siano oil, che non siano petrolio, ed è un indicatore molto reale di come va l'economia, cioè più alto è questo costo, più vuol dire che c'è richiesta di trasportare merci, più gli scambi mondiali sono alti. Più basso è questo costo, meno evidentemente traffico di merci c'è a livello mondiale. Ebbene, lasciamo stare il livello che aveva raggiunto prima della crisi, 11.000 punti. Dopo la crisi era crollato a 600 punti, ricordate le immagini dei cargo fermi davanti ai porti di Amsterdam, Anversa, perché non c'era una richiesta. Era tornato a 4.000 punti fino a qualche mese fa, oggi è calato bruscamente, meno 5%, ed è sui minimi degli ultimi 14 mesi. Non è un bel segnale, vuol dire che il traffico di merci via cargo, che poi per i traffici importanti è quello più rilevante, è tornato ai minimi degli ultimi 14 mesi, 2.018 punti, e continua a scendere dallo scorso 26 maggio. Oh, eccoci, ho fatto tempo di iniziare il programma che già vengono chieste le mie dimissioni da un ascoltatore. Fabio, lei fa terrorismo mediatico, si dimetta, va bene, faccio finire il programma però. Allora, al di là della Cina, oggi dati dell'OCSE, chissà se anche l'OCSE fa terrorismo mediatico sulla disoccupazione, sono dati che preoccupano, siamo ai massimi dal dopoguerra, 1946. 17 milioni di disoccupati nei paesi OCSE in più dal 2007, quindi ringraziamo anche la finanza creativa derivata e deviata di Wall Street e tutti quelli che ci hanno inzuppato il biscotto. Dicevo, 17 milioni in più di disoccupati dalla fine del 2007, e appunto siamo al livello più alto dal dopoguerra. Tra l'altro anche nel 2011 la media resterà sopra l'8% nei paesi OCSE. In Italia, fa notare l'OCSE, è precario un giovane su quattro non ha lavoro, e uno su due, il 44%, è precario, per cui se sommiamo le due cose praticamente solo uno su quattro ha un lavoro diciamo a tempo indeterminato, quindi non precario, oppure in un caso su quattro non ce l'ha proprio il lavoro. Fa notare l'OCSE che grazie all'utilizzo della cassa integrazione il nostro tasso di disoccupazione è più basso di 4 punti percentuali. È chiaro che la cassa integrazione non è un salario vero e proprio, rappresenta il 60-70% del salario, però non viene contata come disoccupazione, è una specie per alcuni economisti di sussidio di disoccupazione, però insomma, se non ci fosse stata la cassa integrazione avremmo avuto una disoccupazione al 12% invece che all'8%. E poi fa notare l'OCSE che il salario medio in Italia nel 2008, è l'ultimo anno per cui esistono dati, è stato di $30.794, inferiore alla media dei paesi dell'area OCSE che è di $41.000, quindi inferiore anche di tanto. Sono però diminuite anche le ore lavorate in Italia da 1870 a 1800. La cosa interessante è che 10 anni prima il salario italiano a prezzi di allora era di $30.380, quindi c'è stato un calo anche a livello reale. E in termini di salario, oggi l'Istat ha diffuso assieme a Unioncamere e all'Istituto Tagliacarne i costi della vita nelle varie città italiane. Come immaginabile, al nord sono più costose, le più economiche al sud. Praticamente i primi 5 capoluoghi di regione più costosi si trovano appunto a Bolzano, che costa un 5,6% in più rispetto alla media nazionale, Bologna 5% in più, Milano 4,7%, Genova 3,4% e Trieste 3,1%. Le città più economiche sono tutte al sud come costo della vita. La più economica in assoluto è Napoli, meno 6% rispetto alla media nazionale, poi Campobasso, Potenza, Reggio Calabria e Bari. Due rapide notizie sulla manovra finanziaria. Allora, il ministro Tremonti ha chiarito che deve essere bloccata la spesa della pubblica amministrazione oppure siamo a rischio di un attacco da parte dei mercati finanziari come paese. Ha chiarito che per le forze di pubblica sicurezza e militari è stata fatta un'eccezione con 160 milioni di euro e ha definito la manovra finanziaria rigorosa e i cambiamenti introdotti sono degli oggettivi miglioramenti. La tensione è di nuovo tutto sul fronte regionale, ne parleremo nella seconda ora, ma perché? Perché le regioni rifiutano di considerare quello di domani, che era un appuntamento previsto nella conferenza Stato-Regioni con il ministro Fitto, come l'appuntamento che loro avevano richiesto, l'incontro che avevano richiesto con il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro Tremonti. Vogliono un incontro in cui ci sia anche Berlusconi, chiedono che domani vi sia anche il Presidente del Consiglio, e altrimenti ridarranno le deleghe previste dalla legge Bassanini. Su questo però si è creato un piccolo giallo, perché due governatori regionali, ossia Renata Polverini e il Presidente della Regione Calabria Scopelliti, sono andati contemporaneamente a incontrare il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vedremo che cosa capiterà. Anche i comuni comunque sono pronti a rimettere le deleghe, mentre c'è un emendamento di un relatore che ricalca in finanziaria, che ricalca la proposta del ministro Calderoli, ossia di un taglio degli stipendi della RAI, meno 20% dal 2011 fino al 2013 per i lavoratori non dipendenti. Poi si stabilisce anche un tetto per il personale. Sì, faccio notare che insomma, il pubblico impiego ha avuto gli aumenti di stipendio bloccati fino al 2013, si cerca di tagliare anche gli stipendi della RAI, dei non collaboratori, c'è stato il rischio di bloccare le tredicesime delle forze armate e delle pubbliche sicurezza. La riduzione degli stipendi dei parlamentari è prevista per il 2013. Dal 2013. Forse no, ogni tanto dare anche l'esempio, ma attenzione, diventiamo populisti, quindi iniziamo subito con il nostro primo tema e mi riferisco alla lotta alla contraffazione, sennò poi ci arrabbiamo. Obiettivamente la classe politica dovrebbe dare l'esempio, lo ha fatto in altri paesi. Va bene, così andiamo avanti. La contraffazione, come combatterla, con qualche notizia positiva, perché attenzione, come scopriremo, l'Italia è un paese virtuoso non solo sulle norme ma anche sulle tecniche per combattere la contraffazione. Del resto noi siamo il primo paese quanto a merci prodotte contraffatte in Europa, quindi da un lato siamo vittime della contraffazione cinese, ma non solo, ma siamo anche vittime di noi stessi. Eh sì, è vittima di noi stessi, insomma sappiamo che secondo la Coldiretti praticamente i danni dal falso nel settore agroalimentare valgono 60 miliardi, quello che è certo è che ci sono beni per 32 miliardi, cioè tre volte quello che è il nostro valore dell'export agroalimentare, che hanno questo Italian sounding, cioè la bandiera italiana, nomi simili a quelli italiani. Non si può parlare di contraffazione in senso stretto, ma comunque il danno economico è fortissimo. E ancora 7 miliardi il danno solo in Italia, con un 5 miliardi di mancate tasse, di mancato introito per lo Stato. Se ne è parlato oggi nella giornata organizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Esteri e Confindustria, giornata contro la contraffazione. Senza la contraffazione avremo 130.000 posti di lavoro in più, ha ricordato la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia, che ha poi segnalato come Confindustria stia lavorando a un codice etico per le imprese, un po' come è accaduto per il codice per chi paga il PIT, cioè l'espulsione da Confindustria se si scopre che c'è un'azienda che sta lavorando copiando altri marchi o copiando altri modelli. La Marcegaglia sul codice etico. Noi oggi siamo qui per dire che questa deve diventare una grande battaglia di tutto il Paese contro la contraffazione. Prima di tutto serve uno sforzo culturale, bisogna far capire anche ai consumatori che nel momento in cui si compra magari anche solo una borsa falsa Gucci non è che si fa una cosa furba, ma significa alimentare la criminalità organizzata, l'immigrazione clandestina, significa creare problemi alle imprese sane. Secondo tema, bisogna lavorare ancora di più per avere una repressione della contraffazione. Molto è stato fatto, ci sono episodi tutti i giorni dove le dogane, la Guardia di Finanza sequestra prodotti contraffatti, ma bisogna continuare, bisogna fare ancora di più. E terzo aspetto, noi pensiamo che anche da parte delle imprese bisogna fare di più, quindi noi lavoreremo, così come abbiamo fatto contro la criminalità organizzata, per avere nelle varie categorie di imprese una serie di codici che allontanino da noi chi produce merce contraffatta. Anche nelle fiere non bisogna lasciare spazio a chi fa contraffazione, quindi vogliamo lavorare molto anche su di noi. Ultimo aspetto, serve però anche una decisione a livello europeo. Quello che stiamo vedendo è che magari si sequestrano molto merci in Italia, anche nei nostri porti, ma quello che sta succedendo è che c'è un grande spostamento di merce contraffatta che per esempio arriva nei porti del nord Europa. Serve una lotta comune alla contraffazione, oggi qui è uscita anche la proposta di avere un commissario delegato per la contraffazione, e noi chiediamo insomma che anche in tutte le iniziative che si faranno a livello europeo ma anche a livello italiano ci sia anche il ruolo delle imprese all'interno di questi organismi che devono decidere le regole contro la contraffazione. Eh sì, vedo anche dei messaggi, qui il tema è delicatissimo perché alcuni scrivono al 349-238-6666, ho capito, ma io non posso permettermi le cose firmate perché non devo avere la possibilità di comprare dei tarocchi. In effetti il tema è anche molto culturale, attenzione, comprare un tarocco, una cosa contraffatta, non è semplicemente pagare di meno una cosa che assomiglia a una cosa di lusso. Significa dare direttamente i soldi alla criminalità organizzata, significa mettere a rischio anche quello che è il cliente. L'altro ieri sono stati sequestrati milioni di pezzi di giocattoli fatti in Cina che non rispettavano le regole comunitarie, quindi anche tossici. Cioè, l'importante è capire che non è un risparmio comprare un qualcosa di contraffatto, a parte il fatto che se non è neanche un obbligo vestirsi sempre con i marchi, ma è dare direttamente soldi alla criminalità organizzata. Mi rendo conto però che mentre nessuno farebbe questo ragionamento sulla droga o su altri elementi, ogni volta che parliamo di contraffazione arrivano messaggi che dicono: ma insomma, io non ho soldi in questo modo, con tutto quello che costano i marchi, almeno cioè risparmio, non capendo che da un lato si finanzia la criminalità organizzata, dall'altro si distruggono posti di lavoro in Italia, si distrugge anche quello che è la capacità del nostro Made in Italy di penetrare i mercati. E comunque, di questo parliamo con, da un lato, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Adolfo Urso. Vice Ministro, buonasera. Vice Ministro, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, sì, mi sente? Buonasera. E grazie anche al direttore dell'Agenzia delle Dogane, dottor Giuseppe Peleggi. Buonasera anche a lei, direttore. Buonasera. Allora, Vice Ministro, ricordavo che la normativa italiana è tra le più avanzate. Se ci ricorda su cosa state lavorando, perché noi abbiamo una normativa in materia di contraffazione che permette poi di fare anche i sequestri, la Guardia di Finanza che abbiamo visto ieri, se vuole anche rispondere però a chi, lo dico in maniera anche quasi innocente, dice: vabbè, ma alla fin fine che male faccio nel comprare una borsetta, un paio di scarpe, una camicia con un altro marchio, alla fin fine quelli guadagnano così tanto con la moda, io in qualche modo risparmio, che è un po' il problema della lotta alla contraffazione a livello culturale. Prego. La normativa italiana ormai è la più avanzata e anche la più severa in Europa e quindi nel mondo, insieme a quella francese. Tra l'altro la nostra normativa dal 2004 punisce, anche se pochi lo sanno e non sempre viene applicata nei comuni, punisce non soltanto chi produce un prodotto contraffatto, non soltanto chi lo commercializza, il prodotto appunto contraffatto, ma anche l'acquirente consapevole del prodotto contraffatto. In pratica chiunque, italiano o turista straniero, acquisti un prodotto contraffatto, per esempio nelle spiagge della nostra Italia, può essere multato da qualunque vigile urbano o forza di polizia, in maniera anche estremamente severa. Acquistare un prodotto contraffatto è un reato. e lo è perché in questo modo si colpisce il cuore del sistema produttivo, soprattutto del sistema produttivo italiano, che è basato sulla innovazione, sulla creazione, su quel prodotto frutto dell'intelligenza umana che dà anima a una materia prima, qualunque essa sia. L'Italia, più che qualunque altro paese al mondo, fa di questo la leva del suo sviluppo e della sua competitività a livello globale. Il prodotto italiano è tale e viene riconosciuto per la sua qualità perché esprime un gusto, uno stile, un'armonia, una capacità innovativa che è data dall'ingegno dei nostri lavoratori, dei nostri imprenditori. E acquistare un prodotto contraffatto significa colpire al cuore questo sistema e impedirne lo sviluppo e la competitività. Oltre che dare soldi alla criminalità organizzata, lo ricordo, perché tutti gli interventi fatti oggi, anche nel corso della giornata nazionale della contraffazione, da parte di vari magistrati ricordavano il legame strettissimo che c'è tra i clan cinesi e l'andrangheta, tra i clan cinesi e la camorra. Attenzione, leggetevi Saviano e poi Gomorra e poi ne riparliamo. Viceministro Urso, mi dice qual è la normativa italiana, perché appunto ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma noi in questo siamo all'avanguardia in Europa, come capacità anche della legge di dare gli strumenti a chi poi deve fare la repressione, alle forze dell'ordine. Siamo all'avanguardia anche perché abbiamo il dovere di esserlo, essendo i più colpiti e i più copiati al mondo, e siamo efficaci nei controlli. Le agenzie delle dogane, i nostri finanzieri hanno colpito questi traffici illegali che, come giustamente lei diceva, alimentano poi in Italia e all'estero la criminalità organizzata e molto spesso che molto spesso utilizza il lavoro minorile. Chi compra un prodotto contraffatto alimenta questa spirale di violenza e di criminalità. Dicevo, siamo all'avanguardia, siamo efficaci, severi nei controlli, nei sequestri alle dogane sul territorio nazionale, però c'è un però. Le dogane non sono soltanto italiane, sono in europee, e come potrà dire il direttore Peleggi, più noi siamo severi nelle dogane italiane, più la merce contraffatta entra purtroppo da altri caselli commerciali, cioè da altre dogane, magari dei porti del nord Europa. Per questo è assolutamente importante che sia l'Europa come tale a muoversi con maggiore severità ed efficacia, per questo è decisivo quello che noi stiamo facendo, per esempio per quanto riguarda l'etichettatura obbligatoria su tutti i prodotti importati nell'Unione Europea, elemento che renderebbe più facile al consumatore capire dove è stato realizzato un prodotto e soprattutto più facile l'azione dei doganieri europei nell'identificazione della merce contraffatta. Allora, qui il problema culturale lo vedo molto bene dai messaggi che arrivano, dicono, ma insomma, ho capito, noi dovremmo pagare tantissimo per marchi che poi magari producono in Cina, in India, in Vietnam, noi vendono a prezzi europei, a questo punto mi compro il prodotto contraffatto, che venissero puniti anche quelli che fanno lavorare, che fanno produrre i loro prodotti magari con lavoro minorile o quant'altro. Allora, il codice che ha lanciato oggi la Presidente Confindustria Maria Cegaglia va in questa direzione, cioè come l'imprenditore che paga il pizzo viene espulso da Confindustria, anche l'imprenditore che lavora in situazioni non corrette viene espulso da Confindustria. B, per concludere il suo intervento, Viceministro, mi sembra però che il problema sia ancora questo, cioè c'è chi dice, ma in sostanza c'è un principio alla Robin Hood nel comprare il prodotto contraffatto, tanto, scrivono alcuni ascoltatori, io quel prodotto Gucci, Louis Vuitton, Lacoste, Armani non l'avrei mai comprato se non contraffatto, quindi che danno faccio in realtà all'azienda? Guardi, anche nel mio recente incontro con l'autorità che lotta contro la contraffazione in Cina, il ministro delegato a questo mi ha detto: abbiamo finalmente capito noi in Cina quale sia il valore della proprietà intellettuale e ormai abbiamo compreso che tutelare la proprietà intellettuale e lottare contro la contraffazione non è un freno allo sviluppo, tantomeno alla diffusione del benessere, è esattamente il contrario. Attraverso la tutela della proprietà intellettuale, la lotta alla contraffazione passa il motore dello sviluppo, dell'innovazione, della competitività, del benessere di un sistema paese. Peraltro in Italia noi dobbiamo in ogni ambito tutelare e difendere la cultura della legalità. Questo vale sia nella lotta lotta alla criminalità organizzata e quindi la denuncia anti-racket di Confindustria, sia nella lotta all'evasione fiscale, perché questo significa sottrarre risorse a chi deve poi distribuirle, cioè allo Stato, sia appunto la lotta alla contraffazione, così come all'abusivismo, qualunque esso sia, l'abusivismo dei venditori ambulanti, ma anche l'abusivismo di chi costruisce una veranda o una casa violando le norme. Noi italiani, che abbiamo inventato lo Stato e la cultura della legalità, abbiamo il dovere di tutelare noi stessi e la nostra immagine, il nostro ruolo nel mondo, sconfiggendo ogni fenomeno di illegalità. Questa è la battaglia che dobbiamo fare ed è una battaglia innanzitutto culturale nel nostro paese. Grazie, grazie Vice Ministro Adolfo Urso. Adesso vorrei capire invece con il direttore delle dogane, dell'Agenzia delle Dogane, perché noi abbiamo vinto per 4 anni di fila, se non ricordo male, direttore per leggi, il premio europeo a chi ha applicato, lo traduco un po' in maniera provvisoria, a chi ha avuto la migliore applicazione informatica nel sistema della pubblica amministrazione. Devo fare però un commento ad molti messaggi che dicono: ma perché, ma che posti di lavoro in Italia? Tanto le grandi marche della moda producono in Asia o in altri paesi, quindi non si danneggia l'economia italiana. Allora, a parte il fatto che comunque se una società è quotata in Italia, è italiana, avrà dei dipendenti anche in Italia, meno fattura lei, meno tasse paga in Italia, meno dipendenti assume in Italia. In secondo luogo è un ragionamento veramente incomprensibile, cioè nessuno obbliga a comprare i marchi. Allora, se non piace quel marchio perché si ritiene che sia troppo caro rispetto alla qualità, basta non comprarlo. Quello che trovo assurdo è comprare un marchio falso dando i soldi alla criminalità organizzata e poi lavarsi la coscienza dicendo ma tanto quelli hanno i prezzi troppo cari, producono anche loro in Asia e allora è meglio dare i soldi alla camorra o all'andrangheta. Comunque, facciamo una cosa, direttore, 2 minuti di meteo, pubblicità, e poi vorrei sapere cosa sono questi sistemi dai nomi bellissimi, nomi verdiani, no? AIDA, Trovatore e Falstaff, che voi utilizzate per beccare i cargo che arrivano pieni di merce contraffatta. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:41 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sulla lotta alla contraffazione e poi passare alla borsa, che ha chiuso molto bene in Italia, più 3,4%, benissimo. Tutti i titoli bancari, Intesa San Paolo più 7,80%, Banca Popolare di Milano più 6,7%, Unicredito e il Banco Popolare anch'essi in rialzo del 6%. Allora, vedo molti messaggi che mettono assieme lo scudo fiscale con la lotta alla contraffazione. Cerchiamo di tenere i casi distinti. Lo scudo fiscale l'abbiamo sempre definito come una sospensione di legalità e vabbè. Ed è stato un condono fiscale di fatto, ma dire che siccome c'è lo scudo allora io compro la merce taroccata e fornisco soldi alla criminalità mi sembra veramente un volo pindarico. Certo che la classe politica, scrivono molti, dovrebbe dare l'esempio sull'etica e la legalità, e allora cosa facciamo? Siccome ci sono i politici che rubano, rubiamo tutti, non so, non mi sembra dei ragionamenti un po' da cortocircuito. Comunque, direttore dell'Agenzia delle Dogane Giuseppe Peleggi, mi racconta che metodi usate e come mai avete vinto per 4 volte di fila il premio europeo all'applicazione informatica nella pubblica amministrazione? Sì, allora, il premio europeo è il premio di governance, l'Awards, significa una specie di Oscar dove vengono date menzioni d'onore, in cui la Commissione europea dite fate come quell'amministrazione di fatto. L'Agenzia delle Dogane, la dogana italiana, è una dogana tecnologicamente avanzata e da tempo lavoriamo sostanzialmente in telematico, nel senso che soltanto il 4% delle dichiarazioni doganali sono presentate ancora su carta e credo sia una quota irriducibile perché sono gli occasionali. Tutto il resto parla con noi in telematico, una dichiarazione ogni 2 secondi, stiamo parlando di 10 milioni di dichiarazioni l'anno medie. Poi ci sono gli IVA intra e sono 23-24 milioni, tutto questo avviene in telematico ormai. Cos'è il sistema Falstaff e quello Trovatore? Allora, usiamo dei sistemi, intanto hanno il nome di opere verdiane, perché sono sistemi che poi vanno alla ribalta internazionale, perché vengono normalmente presentati all'Organizzazione Mondiale delle Dogane, che conta 174 paesi, E ci teniamo a far vedere che è Made in Italy. Made in Italy più dell'opera verdiana, credo sia difficile, insomma, qualificare un prodotto di qualità in quel modo. e quindi ci teniamo anche a presentarlo nel nome. E i premi sono perché? Perché cerchiamo di ottimizzare le risorse che abbiamo e in effetti il salto tecnologico è quello che ci consente di alzare la curva di efficacia ed efficienza, quindi la curva di produzione anche della pubblica amministrazione, a risorse date. Ecco, tecnicamente, cioè, cercando di far capire a tutti, come funziona? FASAF, ad esempio, è un sistema in cui le aziende che ci chiedono tutela ai fini, ad esempio, dell'anticontraffazione, ma non solo, possono mettere telematicamente le caratteristiche del prodotto originario e i nostri doganali in frontiera, nei porti, in tutti gli uffici doganali, possono leggere le caratteristiche del prodotto originale e confrontarlo con quello che hanno davanti una volta aperto un container. E questo significa avere tutto del prodotto, cioè compreso il tipo di imballaggio, eccetera. Cioè non è vietato delocalizzare, ma fateci sapere il vostro prodotto originale, no? Come arriva, quali sono le caratteristiche, voglio vedere che etichettatura mettete, e in questo senso riusciamo a proteggervi dalla copia. A fianco a questo c'è un altro strumento importante che le imprese debbono cominciare a usare in modo più forte, secondo me, e scusatemi se esprimo in questo senso un velato appello, però esiste quello dell'operatore economico autorizzato, che è una figura già riconosciuta a livello comunitario, è sancita a livello comunitario. Noi parliamo sempre di codice comunitario, le dogane hanno normative comunitarie, non hanno più che normative nazionali, rispondiamo a quelle. E le regole sono comuni, anche se poi vediamo che appunto sono applicate in modo diverso. L'operatore economico autorizzato per noi significa molto, significa conoscere la filiera virtuosa del prodotto, significa quindi concentrare il nostro personale sullo sconosciuto. In questo senso le imprese possono aiutarci. Fatevi conoscere, voi che fate il commercio regolare, e noi vi daremo uno sconto sul livello dei controlli, perché conosciamo la filiera virtuosa di quel prodotto, sappiamo che è originale, abbiamo le caratteristiche, la ditta si è presentata, gli abbiamo riconosciuto l'originalità del prodotto e il diritto di proprietà intellettuale, e quindi in quanto tale concentriamo le nostre forze su quelli che sono invece importatori sconosciuti. E il sistema del trovatore è questo? Questo è FASAF. FASAF. Adesso FASAF fa uno sviluppo presso le scuole, abbiamo fatto un accordo 4 mesi fa con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Universitaria e lo stiamo dando in dotazione alle scuole in via telematica con un formato che a breve presenteremo anche alla stampa, che parla bene con i ragazzi, che sono quelli poi tra l'altro che hanno una propensione più forte per le nuove tecnologie e quindi possono lavorare poi loro stessi dentro alle famiglie, sono quelli anche che rischiano di più, perché attenzione, le frodi sono solidali. Chi froda la contraffazione e ha costruito un sistema logistico di distribuzione del prodotto contraffatto non si esime dal distribuire prodotti non sicuri, certo. Non si esime dal distribuire prodotti sottofatturati che viaggiano soltanto nel mercato nero, scompaiono al nostro fisco, questi sono i grandi danni. E l'altro problema quindi qual è? Legato al fatto che esiste una solidarietà delle frodi, che è vero che può sembrare calmierante l'acquisto del prodotto a basso prezzo nel banchettino eccetera eccetera, nell'ambulante abusivo, ma è vero anche che noi ci imbattiamo spesso in scarpe con quantità di cromo esavalente 600 volte superiore al limite comunitario, e il cromo esavalente a contatto con la pelle umana può produrre tumori. Ecco, lei fa bene a mettere in guardia anche dai rischi per la salute. Adesso io ho un minuto di informazioni sul traffico, poi lei dovrebbe dirmi in un tempo abbastanza rapido come funziona l'altro sistema, e quindi quello per controllare il cargo, anche perché molti ascoltatori scrivono, ma insomma il porto di Napoli evidentemente, e per fortuna il libro di Saviano l'hanno letto in tanti, il porto di Napoli è un vero e proprio, per esempio Napoli, un grande passaggio di merce contraffatta, di accolta alla camorra e i clan cinesi. Tra un minuto, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'altro sistema, il trovatore, e come funziona per bloccare quello che è, insomma, stato denunciato, ripeto, anche da Saviano nel famosissimo libro Mai Gomorra, Porto di Napoli, alleanza tra i clan della Camorra e la mafia cinese. Allora, partiamo dal Porto di Napoli. Io ritengo che, su Napoli abbiamo fatto tutti noi, la Guardia di Finanza insieme, un'operazione fortissima tra il 2002 e il 2005. Che è l'epoca più o meno in cui Saviano osservava il porto. dal 2005 in poi posso dire, guardando l'andamento dei traffici sul porto di Napoli, che non è sicuramente il primo posto, la porta europea della contraffazione. Attenzione a queste leggende metropolitane, perché poi in comunità europea noi invece stiamo puntando il dito verso le distorsioni di traffico che abbiamo visto anche proprio su Napoli, come noi abbiamo aumentato il livello di controllo, aumentato le capacità selettive attraverso sistemi telematici, a quel punto, e collaborando con le imprese, a quel punto una enorme massa, ma parlo di migliaia di tonnellate per esempio di tessile, si è spostata verso altri indirizzi, altri punti di entrata. Noi dobbiamo sempre ragionare con Nord Europa, sicuramente, ma anche Spagna, Barcellona, Algeria e altro. Noi dobbiamo sempre ragionare così. La comunità europea è un grande condominio, 500 milioni di inquilini, di 27 paesi diversi. Esistono 27 portieri, che sono le 27 dogane. Sì. Hanno delle regole comuni, orari comuni. Attenzione a come le applicano, perché il portiere che fa finta di dormire ed abbassa la soglia di controllo, la soglia di attenzione o la metodologia di controllo, a quel punto là, quel porto, quel punto, quel portone è attaccabile, certo, dalla criminalità. Direttore, ha un minuto per dirmi come funziona il sistema trovatore, così spieghiamo a tutti. Il trovatore risponde all'esigenza che abbiamo noi in dogana, che significa appunto avere un alto livello di selettività nei controlli, e significa anche non intralciare il traffico e la velocità del traffico, che in globalizzazione, sapete tutti, è una delle variabili determinanti. Il trovatore consente il tracciamento del container e parte dall'analisi del manifesto nave, che ci viene in via telematica rilasciato con 48 ore d'anticipo. Cominciamo a fare l'attività di selezione ai fini antifrode nel momento in cui, 48 ore prima che la nave arrivi in porto. Il che significa velocizzare le attività di controllo, il che significa fare un pre-greeting in mare, significa applicarla in mare, analisi dei rischi, significa quindi, appena il container tocca terra, questo può uscire, perché secondo i miei parametri di rischio è abbastanza sicuro, questo invece va sicuramente aperto e controllato. In porti storici come i nostri, questo sistema è un sistema che ci consente di avere porti competitivi. L'alternativa sarebbe costruire delle infrastrutture enormi, ma questo parla poco con i porti storici, che sono abbracciati, certo, da città storiche, porti che parlano più con la crocieristica che non col commercio. Cioè, il senso è che crei enormi piazzali che non puoi fare in città storiche come Genova, esatto, Napoli e quant'altro, esatto, oppure vai a controllare le merci in maniera telematica, esatto, prima ancora che arrivino. L'alternativa è quella di costruire banchine virtuali attraverso la tecnologia. Esatto. È un po' se uno vuole fare un esempio, è il treno pendolino. Il pendolino che, curvando quando necessario, riusciva a ridurre il tempo di percorrenza del 30% senza toccare la linea dei binari. Sì, no, ma chiarissimo. Le banchine virtuali mi sembra l'esempio migliore. Grazie al direttore dell'Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi. E adesso noi passiamo, con un leggero ritardo, ma mi sembrava importante, passiamo il tema della contraffazione, passiamo alla borsa. Allora, non posso continuare a rispondere sulle domande degli ascoltatori sulla contraffazione. Certo che anche comprare in nero o farsi pagare in nero è un reato comprare beni contraffatti e beni falsi, ci mancherebbe. Sull'evasione fiscale mi sembra che questo programma non possa avere nessun senso di colpa, ne parliamo spessissimo. Allora, Radio Corriere sulle 24 ore, come sempre, per i mercati finanziari. Livia Zancaner, a grande richiesta anche degli ascoltatori. Buonasera. Buonasera. Sì, ma non è per questo che sei in collegamento. Più 3,4% Milano, Parigi più 1,7%, Francoforte più 0,90%, Londra più 1%. L'America guadagna l'1,1%, netto l'andamento di Milano rispetto alle altre borse europee, che si chiama settore bancario, più 7,8% Intesa, più 6,70% Popolare Milano, più 6,11% Unicredito, più 6% ancora il Banco Popolare, più 5,7% Mediobanca, 5,60% Bibanca, 5% Monte dei Paschi. Che è successo alle banche? Allora, le banche in Europa, innanzitutto bisogna dire che hanno guadagnato il 3,86% a livello del comparto. L'attenzione del mercato è focalizzata sui risultati dei famosi stress test sulle banche, che sono attesi per il 23 luglio. In particolare oggi, secondo gli operatori, dopo uno scetticismo iniziale sui mercati, vi è una maggiore consapevolezza riguardo alla serietà e alla qualità di questi stress test, quindi che potranno dare un quadro reale della situazione economica in cui si trovano le banche europee. Inoltre, oltre appunto all'attesa per gli stress test, sono arrivate buone indicazioni dall'americana State Street, che ha annunciato profitti al di sopra delle attese degli analisti. Allora, il resto della borsa lo facciamo dopo il GR. Una cosa però la voglio dire, qui evidentemente c'è qualcuno che ha delle informazioni che noi non abbiamo, tanto per cambiare, perché se gli stress test sono buoni ma verranno resi noti solo a fine luglio, qualcuno li ha avuti prima questi risultati, alla faccia della simmetria informativa, perché sono più 7-80% intesa, siamo contenti che i test sulla tenuta delle banche siano andati bene, c'è qualcuno che probabilmente ha avuto le informazioni un po' prima oppure ha capacità di preveggenza e quindi fa bene a comprare il titolo. 349-238-6666 per gli sms, buonanotte, il GR e poi il resto di Focus Economia. Alcuni chiedono la Consob dov'è, il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Come avete sentito dai nostri GR, a questo punto ci sarà l'incontro tra le regioni e il Presidente del Consiglio, il Ministro Tremonti, a questo venerdì. Però impossibile modifica delle voci in finanziaria blindata, e infatti verrà messa la fiducia come era ampiamente atteso, e quindi l'incontro con i governatori sarà un incontro così interlocutorio, ma non certo per modificare i saldi presenti in finanziaria. Livia Zancanelli, concludiamo e approfondiamo altri temi di borsa. Dicevo, gli stress test saranno anche andati bene, ma oggi Corrado Passera, numero di Intesa San Paolo, ha detto beh, giusto pubblicare questi stress test, qualcuno già li conosce perché ha comprato a man bassa i titoli di borsa, e sappiamo che ogni tanto questo capita, titoli di banche, e questo capita, vabbè, e questo vale appunto per tutte le banche citate, che vanno dal più 7,8 di Intesa San Paolo al più 5,1 del Monte dei Paschi. Bene comunque tutto il mercato, di negativo c'è solo Buzzi Unice, meno 1,6%, e oltre ai titoli bancari, Livia, vediamo andare bene Prismian più 4%, beh, Azimut si collega più 4%, Autogrill di nuovo forte più 3,40%, Exor più 3,30%, Enel più 2,70%, Fiat, Exor e poi gli altri titoli. Sì, allora Fiat ed il socio di riferimento Exor hanno risentito, quindi beneficiato da metà seduta in poi del buon andamento del comparto auto, che ha chiuso con un rialzo in Europa dell'1,59%. Oggi sono arrivate buone notizie dalla francese Peugeot, che ha annunciato vendite mondiali in salita del 16,9% nel primo semestre rispetto a una crescita del mercato del 13%. Inoltre, per quanto riguarda il lingotto, il mercato è in attesa di avere l'annuncio ufficiale relativo al ritorno della produzione della Panda nello stabilimento di Fiat di Pomigliano a partire dal partire dal 2011. Il mercato crede infatti sulle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Inoltre sono arrivati i conti riguardanti le vendite di Fiat Professional, che hanno realizzato una crescita del 12,4% con una quota di mercato del 44%. Questo per quello che riguarda Fiat ed Exor. Diciamo bene anche Autogrill e gli energetici, con Enel più 2,71%, A2A più 2,46%, bene anche Pirelli più 2,4%, Snam più 2,3%, Generali più 2,2% come Terna e Atlantia, Eni più 2%, Fondiaria più 1,70%, Mediolanum un più 1,6%, Mediaset un punto e mezzo percentuale, migliore e peggiore Stefanel più 38%, Credem più 9,80%, Unilever più 7,90%, Società Generale più 7,3%, fronte opposto Marcolin meno 6,6%, Monriff meno 4,2%. Vorrei chiudere con te con Finmeccanica, perché invece Finmeccanica oggi ha conosciuto una giornata un po' più deboluccia, più 0,90% alla fine, ma insomma ci sono voci di problemi questa volta non negli Stati Uniti ma in Germania. Infatti le azioni hanno mostrato un andamento negativo nella prima parte della seduta per poi risollevarsi grazie appunto al rialzo dei mercati. Sì, le azioni quindi sono state frenate dall'indiscrezione riguardante un possibile taglio alle spese militari da parte del governo tedesco. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Berlino avrebbe infatti elaborato un piano di risparmi da 9,3 miliardi di euro per i settori armi ed equipaggiamento, un piano che prevede anche la rinuncia ai nuovi ordini dei jet Eurofighter, consorzio che è partecipato anche da Finmeccanica, per cui la notizia avrebbe comunque un impatto negativo sul titolo. Grazie a Livia Zancanere e colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Le regioni, la spesa delle regioni, le regioni virtuose, la manovra che stanga soprattutto le regioni. Insomma, abbiamo avuto l'ultimo aggiornamento qualche minuto fa, vi sarà l'incontro appunto tra il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro Tremonti e i rappresentanti di regioni e comuni. Questa mattina dure le parole di vari governatori. Intanto saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Gianluigi Bizzioli, docente di diritto tributario all'Università di Bergamo, ma soprattutto autore del libro Il federalismo fiscale, edito da Rubattino. Buonasera professore. Buonasera, grazie. Allora, sentiamo in ordine che cosa hanno dichiarato, devo dire a metà giornata, quindi sono tra virgolette vecchie, viste gli ultimi sviluppi, ma molto dure, i vari o principali esponenti delle regioni italiane. Mi riferisco a Vasco Errani come presidente della conferenza delle regioni e poi Roberto Formigoni e Luca Zaia, quindi Lombardia e Veneto. Sentiamoli nell'ordine. Sono convinto che il Presidente del Consiglio vorrà ascoltare queste buone ragioni e trovare insieme a noi le forme per costruire un equilibrio diverso, fermo restando i saldi. Mi sembra la nostra proposta una proposta ragionevole, non di conflitto istituzionale, ma di piena disponibilità a farci carico, insieme al Governo e all'amministrazione centrale, dei problemi di questo paese. Se la manovra rimarrà così com'è, sarà oggettivo per le regioni insistere affinché si realizzi un'intesa con lo Stato centrale e col governo in relazione alla riconsegna delle deleghe, visto che queste deleghe non siamo più in grado di esercitare. Non può non volere Silvio Berlusconi questo incontro. Lo conosco politicamente e personalmente, non può non volere questo incontro, che è un gesto ragionevole e minimale per mantenere aperto il dialogo, il confronto istituzionale come deve essere tra due pezzi della Repubblica. Noi insistiamo su un punto di puro buonsenso che capisce anche l'uomo della strada. Noi, le regioni, i comuni e le province, tre livelli istituzionali su quattro, chiediamo al quarto livello istituzionale di dialogare. Diciamo al governo che siamo d'accordo sulla manovra, che siamo d'accordo sull'entità della manovra, che siamo pronti a farci carico pro quota dei nostri sacrifici, chiediamo di discutere il come. Io non vi so dire se ci sarà un incontro con il Presidente del Consiglio, queste vicende le cura direttamente il Presidente Errani, sono al fianco delle regioni su tutta questa partita, siamo preoccupati. È altrettanto vero che mi riservo poi di approfondire tutto quell'aspetto rispetto alle regioni virtuose, visto considerato che è una grande battaglia che ho tentato di portare avanti cercando di chiedere che si taglino gli sprechi e si premino i virtuosi. Andrò a leggere, perché gira questa voce, anche voi ne avete scritto molto, di ci dovrebbe essere questo accoglimento di questo premio per i virtuosi. Andremo a capire se è veramente un premio oppure no. Così appunto Vasco Errani, Roberto Formigoni e Luca Zaia, e un incontro l'hanno chiesto anche i sindaci. Allora, dopo le informazioni sul traffico, io vorrei capire se esistono veramente le regioni virtuose, i dati sembrerebbero confermarlo, professor Bizzioli, ma anche che cosa potrebbe portare l'introduzione del federalismo fiscale con i costi standard, cioè se è vero che da qualche parte alcune regioni verranno penalizzate o dovranno risparmiare, dovranno aumentare il carico fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vediamo di capire alcune cose sulle regioni virtuose o non virtuose, fermo restando che anche in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna si può risparmiare. È chiaro che insomma abbiamo raccontato le differenze tra quanto costa una TAC a Vibo Valentia e in Val d'Aosta, tra quanto costa una chemioterapia in Sicilia e in Lombardia, che il parto cesareo in Lombardia costa 1.800 euro, in Umbria 3.000 e passa euro, insomma sempre di parto cesareo stiamo parlando. Però ci sono dei dati aggregati, professore, ancora più interessanti, che sembrerebbero dimostrare che poi le regioni virtuose ci sono. Costo del personale delle regioni per ogni cittadino che vi abita. E anche qui uno potrebbe pensare che, visto che il personale delle regioni è più o meno, dovrebbe essere in proporzione alla dimensione della regione, i costi più o meno dovrebbero assomigliarsi. Non è così. In Basilicata costa 93 euro per abitante, in Calabria 83 euro per abitante, in Campania 71 euro per abitante, in Molise 187 euro per abitante del Molise, in Sardegna 148 euro, in Sicilia 350 euro. Ora, in Emilia Romagna il costo per ogni abitante di ogni dipendente della regione è di 36 euro, cioè siamo a un decimo della Sicilia, a un terzo delle altre regioni citate. E qui non c'è leghismo, lo dico subito a chi scrive. Lombardia 21 euro, siamo a un quinto delle regioni citate e a un quindicesimo della Sicilia. Ancora in Veneto 32 euro, virtuosa anche la Toscana con 43 euro e la Liguria con 34 euro. Chiudo con i dati, perché insomma queste cose sono interessanti a mio avviso. Insomma, quanto spendono i vari cittadini delle regioni italiane per finanziare i loro palazzi, cioè gli organismi? Allora, spendono 24 euro in Basilicata, 22 euro in Abruzzo, 38 euro a testa in Calabria, 16 euro in Campania, poi si crolla 9 euro in Emilia Romagna, 9 euro in Piemonte, 9 euro in Toscana, 9 euro in Veneto. E anche questo la dice lunga. Allora, il federalismo fiscale con i costi standard, professor Bizzioli, porterà che cosa? Risparmi o maggiori tasse, secondo lei? Allora, posso fare una premessa? Breve. Allora, no, sui dati che lei ha citato, c'è da fare un distinguo innanzitutto, perché le regioni statuto speciale non possono essere comparate con le altre regioni. Infatti la Sicilia forse lo potremmo levare, però per il resto vale. Esatto, perché hanno molte più funzioni, per cui non voglio giustificare, cioè non è giustificato. No, ha ragione. Però è vero che la Sicilia, come il Trentino Alto Adige e quant'altro, hanno molte più funzioni, per cui da qui si spiega anche la maggiore spesa del personale per abitante, che probabilmente non è nell'insieme giustificabile. Però invece, passando all'altra domanda, quella dei costi standard, i costi standard porteranno indubbiamente un risparmio. Il federalismo fiscale ha come obiettivo quello della razionalizzazione della spesa pubblica. Questo è il primo obiettivo, ma porterà anche ad una redistribuzione delle risorse statali. Perché? Perché le regioni che lei ha indicato, cosiddette virtuose, riceveranno più di quanto spendono e quindi potranno utilizzare quel più di quanto spendono per altri servizi, quindi offriranno ai propri residenti servizi in aggiunta rispetto alle regioni meno virtuose. Speriamo servizi e non consulenze e iniziative un po' folcloristiche, tipo la promozione dell'etnia locale, però insomma, noi ci auguriamo che siano servizi, prego. Quindi da un lato con i costi standard avremo che tutti dovranno spendere quanto indicato dallo Stato. Chi riesce a spendere quanto indicato dallo Stato, bene, chi non riesce dovrà ovviamente imporre nuovi tributi ai residenti, tributi che saranno in prevalenza tributi sui servizi che la regione rende ai propri residenti. Ora, tirare delle conclusioni in questo momento i quali risparmi questa riforma porterà non è possibile, perché non abbiamo i dati dei costi standard, e credo che arriveranno a breve, perché il governo ci sta lavorando e sarà uno dei primi decreti. Cioè non sappiamo dove verrà fissata l'asticella dei costi standard. Lei prima parlava del parto cesareo in Lombardia e in Umbria. 1800 contro i 3600. Dove verrà fissata l'asticella del costo standard? A 2005 magari. Se verrà fissata a 2005, la Regione Lombardia godrà di un margine di finanziamento superiore, mentre l'Umbria, se vorrà mantenere la stessa spesa, dovrà attaccare. Mi scusi, e non è pensabile che il costo standard sia il costo più basso a parità di servizio? Cioè, voglio dire, siccome la sanità in Lombardia, come in Veneto, in Emilia, in Piemonte, funziona abbastanza bene, sì, e non penso che insomma sia un caso negativo di parti cesarei, dire vabbè, la Lombardia riesce a tenere i parti cesarei a 1.800, ti diamo un margine fino a 2.000, ma insomma oltre non vai. Non potrebbe essere la best practice, il caso allora, più virtuoso, il costo standard? Io non credo proprio. Non credo proprio, perché se fissassero il costo standard al livello più basso, la riforma sarebbe insostenibile e quindi sarebbe un insuccesso. Cioè sarebbe insostenibile per le regioni del sud Italia. Per cui il costo standard non sarà un costo fisso e immutabile. Il costo standard sarà un costo che periodicamente, se non ricordo male, a cadenza triennale, sarà sottoposto a revisione. Per cui verrà fissato, io credo, come ad una linea mediana, e poi probabilmente sarà soggetto a delle rivisitazioni che porteranno verso, credo e spero, verso il basso, cioè verso la best practice, come diceva lei. O magari in un percorso si può dire, ti avvicini a un costo di parto cesareo di 1.800 euro partendo da massimo 2005, poi dopo 3 anni scende a 2.000, cioè dare il tempo alla struttura di adattarsi. Tutto vero, e la riavremo ospite, perché a questo punto sul federalismo fiscale si gioca una partita importantissima. Faccio solo notare che voglio dire, lo citiamo spesso, ma insomma in Sicilia per esempio, ho capito che ci siano dei casi diversi da regione a regione, ma insomma il costo di un attacco nella ASL di Palermo è sceso da 128.000 a 9.000 euro dopo l'introduzione dell'amministrazione giudiziaria. Un ciclo di terapia per il tumore alla prostata è passato da 136.000 a 8.000 euro. Per cui anche il discorso del plasma, che costa 4 volte in più al sud rispetto che al nord, insomma, i margini lì ci sono. Grazie comunque, perché ripeto, torneremo a parlare con lei, anche perché obiettivamente i decreti attuativi sono ancora tutti da fare. Grazie, perché i numeri li conosce, a Gianluigi Bizzioli, docente di diritto tributario all'Università di Bergamo e autore del libro Il federalismo fiscale. Grazie. E allora, dopo la contraffazione, la borsa che va bene, qualcuno che ha qualche informazione in più, chiudiamo in maniera un po' più morbida con una buona notizia. Ossia, domani a Milano verranno presentati ufficialmente i dati dell'UPA, quindi l'associazione delle imprese che investono in pubblicità, e qualcosa si muove, la pubblicità torna a essere in leggera ripresa. Ne ha parlato la nostra Alessandra Scaglioni con il presidente dell'UPA Lorenzo Sassoli De Bianchi. Il mercato della pubblicità, dopo un 2009 difficile, è in lieve ripresa e noi prevediamo che nel primo semestre del 2010 vi sia una crescita di circa il 4%. Ecco, questa è una buona notizia, nel senso che è un segnale di inizio di ripresa? No, direi che è soprattutto un segnale di fiducia. Di fiducia da parte delle aziende verso una ripresa che al momento noi vediamo ancora in un orizzonte non vicino. Non vicino nel senso non per quest'anno? Non per quest'anno, i consumi languono, c'è ancora poca visibilità, c'è una grande incertezza, la manovra economica di cui si parla da oltre un mese sui giornali certamente non aiuta a pensare con ottimismo nei confronti dei consumi, per cui certamente abbiamo un anno fortemente interlocutorio ancora e noi ci aspettiamo qualche segnale positivo a partire dal 2011. E allora, qualcosa si muove sul fronte della pubblicità, è un segnale importante di una leggera ripresa, però costantemente in atto. Di pubblicità parlerà, se ho ben capito, anche Giuseppe Cruciani con La Zanzara, che inizia tra pochi minuti. Ricordo che da lunedì facciamo questo passaggio difficilissimo, faticoso, uno stupro di testimone. Allora, di che pubblicità ti occuperai? Beh, la pubblicità che Berlusconi ha fatto all'Italia, perché il Ministero del Turismo, guidato da Michela Vittoria Brambilla, si è inventato uno spot per l'Italia, per attrarre turisti in Italia, con la voce del Presidente del Consiglio. Una voce suadente, una voce molto delicata, diversa da quelle che di solito usa Berlusconi nelle conferenze stampa e nelle altre versioni, diciamo, ufficiali, ed è Berlusconi che cerca di indurre i turisti a vedere in Italia. Vedremo che effetto avrà sul turismo la voce del premier. Immagino che citi le bellezze italiane. Sì, le bellezze italiane, che sono in questo caso paesaggistiche, spero. Paesaggistiche, solo paesaggistiche. Vabbè, non era scontata. Grazie Giuseppe Cruciani. A tra poco la Zanzara. Da Sebastiano Barigioni invece l'auguro di una buona serata. Wall Street guadagna l'1,44%, molto buona la chiusura oggi a Milano, più 3,4%. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.